Elio Forcella presenta Peace and Love, canzoni contro la guerra, con la partecipazione di Carl Barthelboom. Barthelboom, che sarei io poi? No, questa è, vedi, poi hai capito Elio che fa il pomeriggio, il nostro regista si diverte a fare queste siglette. Buonasera a tutti, Radio Cerrano Web, questa sera le mie schegge naturalmente le ho cedute, le cederò, schegge d'amore e di pace, questa sera le cederò molto volentieri ad Elio Forcella, poliedrico artista del nostro territorio, che così un po' di tempo fa ho incontrato e mi disse: Carlo, ma che ne dici di... anzi mi disse Carl, che ne dici di fare un programma su sulla contro la guerra, insomma, utilizzando pezzi e brani importanti che hanno segnato il nostro tempo. E io naturalmente ho detto: ma come no, è ottimo. Elio, ciao Carlo Mix, che sta dietro alle nostre spalle, dietro il vetro. E ciao a tutti, io sono molto contento di essere qui questa sera, la seconda volta. Ti dicevo mentre venivamo che la prima è stata a dicembre, inverno, invece adesso è primavera, perlomeno dovrebbe esserlo, e questo è importante per me perché, chissà perché, ci ho pensato altre volte, cioè io accosto la radio, se dovessi accostarla a una stagione, l'accosterei alla primavera. E forse, poi scavando i miei ricordi, c'è un motivo, perché quando ho cominciato ad ascoltare la radio in un certo modo, non solo come intrattenimento, canzonette, eravamo nel 68-69 e c'era appunto quel periodo, c'era la famosa primavera di Praga e poi il maggio francese. Sono due momenti che si poi sono svolti fra la primavera e l'estate del 68. È vero, maggio comunque è la primavera, come dici tu, ma maggio in genere è un mese in cui storicamente le date importanti si rincorrono. Il maggio francese, come dicevi tu, nel 68, appunto, con l'inizio della, chiamiamola contestazione, ma io direi più di una rivoluzione culturale da parte degli studenti. E poi anche... ieri sera stavamo rievocando anche un po' la morte di Impastato, ma la stessa morte oggi ricorre la morte di Aldo Moro, e poi il pacifismo di cui parleremo stasera anche. Secondo me maggio è il mese della rinascita, della ritrattino nascita. E infatti sono una donna a maggio. Anche tu sei destinata a essere un rivoluzionario. Sono, allora, sì, Carlo. Rivoluzionario. Io sono nato lo stesso giorno di Karl Marx. Appunto. Quindi. Appunto ti chiamo Carlo. Appunto mi chiamo Carlo. Col K. Con... sì. Dunque, no, ti dicevo che questa, vorrei aprire questa, appunto, questa trasmissione e dedicare questa trasmissione a Peppino Impastato, ricorre il quarantennale della morte, una morte un po' offuscata da tutto quello, il caso Moro, quindi la morte di Aldo Moro. Io non vorrei spendere parole che già sono state dette, molte parole eccetera, vorrei solo leggere questa bellissima, importantissima, profonda frase di Peppino Impastato: se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima. Ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. E per questo

alla violenza del potere in tutte le sue varie forme e sfaccettature, però una resistenza attiva, ma non violenta. D'altronde, in fondo, Peppino Impastato era anche un DJ, come lo sei tu, Carlo. Infatti lo abbiamo ribadito ieri. Lui quindi da Radio Out... Sono un po' meno coraggioso io. No, per fortuna forse qui non c'è Gaetano Badalamenti qua da noi. Sì, infatti. Però le nostre battaglie le abbiamo fatte. Esatto, lo strumento di lotta, perché lui ci ha rimesso la vita... Però di Peppino Impastato, leggevo proprio ieri un articolo del suo amico, adesso non ricordo il nome, quello che collaborava con lui a Radio Out, dice sì, in effetti qui a Cinisi, che è il paesino vicino Palermo dove viveva Giuseppe Impastato, le cose non ci sono più, i badalamenti eccetera, però la mentalità non è molto cambiata di molto, perché numerose gente che va a visitare, cioè una sorta di museo è sorto, parecchie persone, parecchi abitanti o fanno finta di non conoscere questo Peppino Impastato, addirittura qualcuno dice che era nel migliore dei posti un rompiscatole. Quindi è un esempio che comunque non deve rimanere, e portarlo sempre nei nostri cuori, ma soprattutto alla conoscenza della gente. È una testimonianza che deve restare, quella di Peppino Impastato. Sai, io quando ascolto queste cose mi viene sempre in mente il passo del Vangelo, no? Quando di fronte... quando Ponzio Pilato non vuole assolutamente sporcarsi le mani con quella decisione politica e presentano al popolo, rimette al popolo la decisione, dice: ma volete Cristo o volete Barabba che sia liberato? E il popolo sceglie naturalmente Barabba. Questo per dire che in qualche modo la maggioranza, la moltitudine spesso non è che sia così avveduta, non è che sia così portata verso... Il buono, il bello, spesso è il terreno di coltura appunto di determinate situazioni, chiamiamole mafiose, anche su tutti i livelli. Quindi parto sempre, no, dalla nostra responsabilizzazione, della responsabilizzazione di culturale nostra, di persone che vivono tutti i giorni la propria vita. E credo che poi l'inversione di tendenza si avrà nel momento in cui tutti faranno il proprio dovere senza nessun tipo di cedimento. In fondo è questo, credo. E Peppino Impastato, infatti, è l'esempio di quella persona che con la sola parola, la sua ironia, ma anche la sua normalità, che poi è questa, la sua normalità poi, infatti, ha messo a nudo il cosiddetto il re nudo, no? Ha messo a nudo appunto la violenza e la connivenza anche. Sì, ma Carlo lo ha fatto ricorrendo a un sistema di lotta di non violenza. E appunto. Questo è ancora più importante, perché ti fa capire come la mafia abbia ucciso una persona che in fondo faceva una trasmissione, a parte l'impegno politico, lui era un attivista del PSUP. Non era neanche ben visto, non molto ben visto neanche dal PC, come sai. Poi. Sì, sì, sì. Ma è successo spesso. È successo anche a noi, il piccolo è successo anche a noi. Ma appunto, nonostante questo, in fondo lui dissacrava la mafia, prendendolo in giro con sarcasmo. Lui abitava a 100 passi, proprio da qui 100 passi, casa sua, da quella di Gaetano Badalamenti. Che poi è stato condannato dopo parecchi anni, finalmente è stato condannato come mandante di questo omicidio. Però la cosa che volevo mettere in risalto è proprio questo, che si può lottare anche senza armi o con armi diverse, che può essere la musica, una radio, una poesia, un racconto, una chitarra. Questo mi piaceva metterlo in evidenza. Sai, io a chi voglio accostare il nome di Impastato, proprio per far capire che il pacifismo, comunque la non violenza, è un qualcosa che poi ci può coinvolgere in tutti i momenti della nostra vita. Io ci mi piace agganciare a questo discorso anche Don Milani, Don Lorenzo Milani, che è sicuramente una figura, sicuramente una figura controversa della Chiesa Cattolica, ma una figura che ha fatto, magari non ha usato la radio, ma ha usato la cultura, quindi la conoscenza, e ha fatto della conoscenza, della cultura, appunto l'unica arma messa a disposizione dei suoi ragazzi, dei Barbiana. Sì, peccato che Don Milani è uno dei pochi esempi edificanti, diciamo, della Chiesa. Tu sai, il mio spirito anticlericale. Sì, però voglio dire, adesso, diciamo che Don Milani è un po' colui che ha messo a nudo parecchi limiti, sì. Anche. Adesso che ci ascoltiamo invece? Sì, adesso, rimanendo proprio nel tema di questa sera, invece faccio ascoltare Auschwitz di Francesco Guccini. Senza amare. piazza e il vento si poserà. Questa è una di quelle canzoni che un po', a parte che hanno segnato un'epoca, no? E che comunque hanno anche fatto discutere tanto. Di che anno stiamo parlando? Ma sinceramente mo mi trovo un po' in preparazione. 68-69, sì, sono gli anni 70. E sì, questo sì. Naturalmente è Auschwitz di Guccini. Sì. Che a proposito di chiesa, anche qui insomma ci fu una discussione, no? All'interno della chiesa credo che ci sia una cosa su mandare, no, quello è Dio è morto, ma sì. Bisogna dire che fu censurata la canzone dallo Stato italiano, ma non dalla chiesa. Dio è morto, sì, esatto. È vero. E invece Auschwitz metteva in chiaro insomma diverse cose, ma anche credo una domanda un po' filosofica c'è dentro questa canzone, che è quella del come è possibile che un Dio, no, permetta questo, tutto questo male. Beh, infatti io non credo in Dio. No, ma credo che scusa, mi passo. No, poi sembra che ci siamo messi d'accordo. No, assolutamente no. Anzi, questa sera ti vedo che sei portato verso la religione. Non capisco perché dovevo andare a parare questa sera. Ti vedo un po' mistico. No, perché sei una versione mistica, Carlo. Sai perché? No, perché credo che l'argomento, comunque, l'argomento di questa sera vada trattato in questo senso. Sì, anche. Tu pensi, adesso ti cito Hermann Hesse. Che è uno scrittore che in quel periodo è anche un po' il padre del pacifismo, credo, certo. Mondiale. E lui infatti diceva: se guerra ci sarà per molto tempo ancora, forse per sempre, il superamento della guerra rimarrà il nostro fine più nobile e l'ultima conseguenza della civiltà cristiano occidentale. E su questo sono pienamente d'accordo. Poi con questo Papa le cose si stanno mettendo in questo. Io non ti voglio mandare fuori tema, ti sto deviando il programma. No, forse sì. Scusami. No, Carlo, comunque Auschwitz forse è stato il campo di sterminio, è stato proprio l'aberrazione finale terrificante dove può arrivare l'uomo, sì. E la guerra, quindi. Io l'ho visitato, è una cosa che era capricciante. Sì, non riesci a, non pensi come un uomo riesci a capire possa fare questo, ma non riesci uomo. A capire poi l'industrializzazione della morte, cioè questi proprio come, esatto. I tedeschi hanno, come fanno le Volkswagen, ma diciamo i nazisti, hai ragione, i nazisti. Vedi, per esempio, scusami se ti interrompo. Questo discorso del nazismo, e noi naturalmente storicamente abbiamo vissuto il fascismo come nazione, è un peso che i tedeschi si portano dietro da tantissimo, sì. E con cui fanno fatica anche a fare i conti, nel senso che sanno che è stato una grossissima tara del loro popolo. Questo perché? Perché all'interno della Germania ci sono stati, ma si contano sulle dita di una mano, quelli che si opposero al nazismo e alla crescita del nazismo. Tutti i tedeschi erano praticamente nazisti. La stessa cosa è avvenuta in parte in Italia, però è anche vero che, ecco perché il 25 aprile dicevo, è anche vero che la resistenza ci ha in qualche modo non solo liberati, ma anche redenti come popolo. Sì, è il discorso che facevamo l'altra volta, però ti dico adesso stiamo correndo un pericolo che in Germania, proprio per quello che dicevi tu, non corrono. C'è questo revisionismo in un certo senso. Sì. Si tende quasi a fare, vabbè, la resistenza l'uno e l'altro. No, no, la resistenza è stata una lotta contro il nazifascismo, punto e basta. Questo ma non solo, chiaro. Ma è stato poi, quel movimento non maggioritario, ricordiamolo, certo. Non maggioritario, che ha redento l'intero popolo. Cioè noi, certo, grazie a quel movimento, a quei giovani, a quei ragazzi che presero i fucili e andarono a combattere contro i nazisti e anche contro i propri fratelli italiani, beh, noi a questo punto ci troviamo non più a fare i conti con un paese, come dire, anche se adesso insomma è tornato di moda questo fascismo, fascistizzazione anche di tutto, insomma, ecco, ha preso altre sembianze, ha preso le sembianze del populismo, ma in fondo è quello. E quindi credo che noi dovremmo essere grati a quelle persone lì, essere grati, perché altrimenti saremmo nelle stesse condizioni dei tedeschi riguardo al nazismo, o no? Sì, sì, sì, Carlo, però ti ripeto, questa come già ci stavi dicendo tu, questo revisionismo a me non piace molto, no, è pericoloso, anzi. Un altro popolo credo che abbia subito la prepotenza e la potenza di un'altra nazione sono appunto gli irlandesi. E ti volevo, senza addentrarci troppo, questa canzone che sentiremo adesso è Sand Blood Sunday degli U2, è la Domenica di Sangue del 30 gennaio 1972, appunto nella città nordirlandese di Derry, che poi gli unionisti chiamano Londonderry. Sì. L'esercito del Regno Unito sparò sui partecipanti a una manifestazione e su 14 civili furono uccisi e altrettanto feriti. E l'episodio passò appunto alla storia come Blood Sunday Blood e scatenò la rivolta poi nazionalista. Sabato di sangue. Sì, contro il governo di Londra. Eh sì, io vorrei intanto ricordarvi che siete all'ascolto di Radio Cerrano Web, questo spetta a me, questo compito. Saluto quelli che già ci stanno seguendo tramite Facebook, la nostra diretta, Daniele, c'è Gabriela che ormai è aficionadas, e che salutiamo. E poi naturalmente tutti quelli che ci seguono anche attraverso le nostre piattaforme d'ascolto. E questa sera ci stiamo occupando di pacifismo, credo che sia un po' riduttivo, no? No. Pacifismo, no war, no, no violenza, diciamo. Sì, è vero. No violenza. Del potere, però, stiamo parlando sempre della posizione al potere. Allora ci stiamo occupando di resistenza. Esatto, resistenza attiva, resistenza. E pacifica. E pacifica, esatto. E quindi ci ascoltiamo gli U2 adesso. Sì. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Stava tornando in mente, Elio, che proprio in questi giorni credo che ci sia stata la definitiva resa dell'ETA. Credo di sì. Cioè comunque la pacificazione, in questo caso in Spagna, che non è cattiva cosa. Perché ETA e IRA venivano in qualche modo... due braccia armate. Sì, erano partiti armati, ecco, in due nel pieno dell'Europa. No, io volevo, prima che tu intervenga, volevo solamente fare una brevissima citazione colta, permettimi questa cosa, perché altrimenti sembra che qui si parli, no, di canzonette, di, sai, di autori, sì, bravi, però insomma sempre di cose. Noi stiamo parlando comunque soprattutto del movimento pacifista e comunque tutta la filosofia pacifista, perché stiamo parlando di un movimento filosofico che tra i suoi spunti maggiori c'è, ad esempio, la Treccani dice, considera Charles Castel de Saint-Pierre il primo pacifista occidentale, che e le sue teorie hanno influenzato. Egli scrisse: il progetto di pace perpetua, e questo progetto di pace perpetua influenzò Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Immanuel Kant, e quindi filosofi importanti per lo sviluppo del pensiero occidentale, e anche tantissimi altri pensatori dell'illuminismo. Quindi tutto questo poi si è riverberato anche in visioni nella prima visione dell'unificazione europea, ispiratrice sia della Società delle Nazioni, questo nel 1919, sia dell'ONU. Quindi voglio dire, quando qualcuno storce il naso a proposito di pacifismo o a proposito di questo tipo di movimento, insomma, le radici sono profonde. Sì, e cioè, salde. Sicuramente, anche perché, Carlo, il pacifismo non è rinuncia alla lotta, cioè a volte si confonde queste cose, il pacifismo, cioè uno che rinuncia, no, è assolutamente una lotta non un'altra armata, lotta. È un altro tipo di lotta, anche forse più difficile, più dura. Però io volevo, se mi consenti, dopo questa tua citazione coltissima, ritornare a quello che era un po' il principio dove ho cominciato il discorso, nel senso, eravamo partiti al maggio del 68, che si verificò appunto in Francia, e che ha costituito il 68 una cesura netta nella storia contemporanea, non solo francese, ma anche internazionale, occidentale. E poi fu una rivolta spontanea che aveva la sua matrice, bisogna ricordarlo questo, nella ribellione nei campus americani dei giovani studenti americani, e che approdò in Francia e che trovò poi l'unione con il movimento operaio. Questo è importante. Che poi sì, tant'è vero che nell'autunno caldo, successivamente nel 69, in Italia si unì il movimento studentesco a quello operaio. Questa rivolta, questa che poi verrà chiamata poi contestazione giovanile, era una rivolta non solo di natura sociale o politica, ma anche filosofica, come hai ricordato tu, sì. Indirizzata chiaramente contro il capitalismo, contro l'imperialismo, la società quindi dei consumi, quei valori tradizionali. Non dimentichiamoci, Carlo, che prima c'era in famiglia, c'era il padre padrone, a scuola c'era il maestro padrone, o l'insegnante padrone, nelle fabbriche il padrone era il padrone, padrone. Il cittadino era uno stato padrone, uno stato, quindi si rimisero in discussione tutti questi rapporti all'interno della società, contro il potere appunto costituito, mettendo appunto questi valori, e fu una sorta di rivoluzione, sì, forse fu anche illusoria da un certo punto di vista, un po' utopica, ma portò a questo. Indubbiamente ci furono anche degli errori, sicuramente delle rivendicazioni assurde, ma sicuramente cambiò il modo di rapportarsi dell'uomo e come cittadino e all'interno della famiglia e della società. Io ti voglio ricordare alcuni slogan che si dicevano in quel periodo e che sono molto... vediamo se me li ricordo. Vediamo. Uno era vietato vietare. Sì. L'altro era... la vita è altrove, e un'altra ancora era la fantasia al potere. La vita è altrove, non mi ricordavo. Due su tre. Sei promosso, caro. Sì, no, io volevo fare una piccola sottolineatura a quello che dicevi tu, nel senso che questa rivolta, io la guardo un po' dalla mia parte, dalla parte un po' del comunicatore, una cosa non indifferente. Questa rivolta, o questa chiamiamola contestazione giovanile, che come hai detto tu giustamente partì dai campus americani per poi propagarsi in Francia e un po' in tutta Europa, ma in tutto il mondo diciamo occidentale, anche un po' più acculturato, i sociologi questo divampare, questo allargarsi lo attribuiscono soprattutto alla crescita dei mass media, e cioè televisione soprattutto, quindi i giovani italiani, i giovani francesi, i giovani tedeschi per la prima volta seppero che in America e videro che in America attraverso la televisione videro che in America stava succedendo quello. Naturalmente tutto ciò poi tornò in discussione anche qui nelle nostre città, nelle nostre università. E poi naturalmente la cosa si allargò a macchia d'olio, ma la televisione soprattutto ebbe un ruolo importantissimo in questa cosa, anche inconsciamente, voglio dire, nel senso che il potere, come lo chiamavi tu, costituito, non si accorse un po' di questa miccia che stava accendendo attraverso i servizi che arrivavano dall'America. Carlo, quel periodo, il 68, intendo il 68 anche poi qualche sì. anno dopo naturalmente, io ti posso dire quello che è la mia esperienza, nel senso che l'informazione che dici tu, è vero che si allargò questo attraverso la televisione, la radio come ricordavi, però io mi ricordo fra 69-70, gli anni 70, che cercavo quelle emittenze che poi rientrano nel gioco di questa sera, nel senso del tuo mestiere, tipo Radio Koper o Capodistria e Radio Luxemburg o Lussemburgo. Perché? Perché negli anni 70, soprattutto nei primi anni 70, la RAI forniva notizie volutamente fasulle o asservite al potere. Per esempio, la Grecia dei colonnelli, in cui si torturavano i cittadini democratici e cittadini oppositori, non esisteva per la RAI, così come le bombe USA a napalm sui villaggi vietnamiti era una balla inventata dai sovietici, come i massacri di Pinochet in Cile erano illazioni. Quindi invece attraverso Radio Capodistria Koper oppure Lussemburgo, che era una sorta quasi di radio pirate, tu sai, qua vorrei aprire una parentesi proprio nell'ambito, noi ricerca di questa, una delle famose radio pirate dell'epoca fu Radio Caroline, che trasmetteva da una nave al largo delle coste inglesi e dell'isola di Man, al largo dell'isola di Man. Così si dice. Sì, no, no, è una storia, nel senso che era seguitissima per, sia per la musica che per la controinformazione. La cosa bella, che poi è stato, questa esperienza è stata riportata in un famoso film del 2009, I Love Radio Rock, che la vita di bordo era particolare, affascinante. Questo per un DJ come te dovrebbe, dovrebbe piacerti molto. Pensa, a me, guarda, cioè, Carlo. Mi fa tanta tenerezza quando mi chiami DJ. Vabbè, adesso pensa, il compenso per i DJ era di 25 sterline alla settimana, 20 sigarette, pasti e soprattutto birra gratis. Questi restavano a bordo 2 settimane, poi andavano, scendevano a terra, sulla terraferma per una settimana e poi ritornavano. Sì. Interessantissima questa cosa, ma soprattutto, ecco, io ci avrei messo la firma, tu, appunto, Carlo, ma anch'io ce l'avrei messo, io non sarei tornato assolutamente a quell'epoca, ci avremmo messo, era un po' piccolino, ma insomma, sì, poi mi scoppio dopo la... E quindi dicevo l'importanza della, anche della controinformazione di questi mezzi di comunicazione, che di cui noi andiamo a ricerca. Ma infatti io ti ho detto che lì c'è stata un innesco di la televisione ha innescato, sì, la miccia, e poi la cosa non è più, non l'hanno potuta più controllare, nonostante mettessero sotto il tappeto la polvere o le notizie, come dicevi tu, ed è vero, nonostante i mezzi fossero pochi, però ormai la notizia era partita. E tra parentesi, poi quando tu cerchi di chiudere la falla, fai peggio, perché logicamente può succedere anche che poi passino notizie anche non vere, magari anche, e quindi tutto si autoalimenta. E questa cosa, dicevo, della propagazione, proprio della contestazione, se ben ricordi, per esempio in Italia tutto ebbe inizio da un banalissimo articolo di un giornalino scolastico, del Parini di Milano se non sbaglio, che si chiamava La Zanzara, che parlò di una stupidissima lezione di sessuologia, una cosa del genere, parlava di questo, e da lì poi in Italia si scatenò di tutto. Poi vabbè, ci furono i disordini di Valle Giulia, eccetera, però voglio dire, vede come in fondo poi l'informazione è una slavina che poi non fermi più. Sì, adesso direi posso proseguire, Carlo? Scusami, cioè, sì, ma poi io mi infervoro perché l'argomento, no, è bello. Allora, sì, continuiamo sul tema della no war e del pacifismo con questa canzone famosissima, e che è di Fabrizio De André, La guerra di Piero. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Qui parliamo di un altro caposaldo, no? Oltre che della, della musica italiana, anche un po' della poetica europea contro la guerra. Sì. Questa guerra di Piero, spesso De André, no, spesso insomma De André non è che uno che rilasciasse tante volte interviste, però disse in un paio di interviste che faceva riferimento ai ricordi che lui aveva di suo zio, cioè lo zio che tornava dalla, che aveva fatto la campagna d'Albania, e raccontava a lui questi, veramente questo questo andare alla deriva dell'antieroe Piero, in qualche modo, e questo è proprio emblematico. Tu volevi dire qualcosa? Ah no, hai detto benissimo tu, Carlo. È lapalissiano, cioè il messaggio, credo, che voleva inviarci De André. D'altronde lui era, dico, un non violento, un pacifista, credo, che attraverso le canzoni ha portato la sua lotta contro il potere. Io ti volevo agganciare De André, un altro cantautore molto diverso e che si occupa di questo tema di questa sera, e che è Francesco De Gregori con il suo generale. Vi ricordo che siete su Radio Cerrano Web e che questo è il programma Schegge Impazzite, condotto da Carl Barthelboom. Ecco, un pseudonimo così difficile da pronunciare, comunque ci ma sta. Questo è uno scrittore come te, no? Questo pseudonimo è uno, lo so, un pseudonimo letterario, quindi insomma. Sì, però questa pronuncia ogni volta. Da Vincenzo che ci sta ascoltando me lo posso aspettare. ma da te. Assolutamente sì. Ma questo Barthelboom, l'ho detto bene? Sì. Mi rimane ostico, non lo so, preferivo Karl Marx. Bisognerebbe chiederlo. Avrei preferito Karl Marx. Ma Karl, allora, te l'ho detto, il Karl... infatti Barthelboom non c'ha il nome nel romanzo, esatto, c'è solo Barthelboom, non è questo cognome, sì. Carlo l'ho aggiunto io in onore del mio filosofo preferito. Ok, quindi se siamo pronti andiamo con questo brano che è Generale di Francesco De Gregori. Dai, fai girare il piatto. Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Mi piace questo, mi piace questa, questo stacco un po' easy jazz. Carlo, dove l'hai preso? Chiedilo a Pat Metheny. Questo fa parte del, se non sbaglio, del doppio Travel, giusto? No, questo è Letter from Home. Ma è il disco? Disco del 1989. Vedi, mi confondevo con Travel. Va bene, mi piace. Pat Metheny, ho avuto anche la fortuna di ascoltarlo dal vivo. Tu, Elio? No, no, non ancora, ma credo che dovrebbe venire a Pescara. Sì, sì, infatti a quest'estate. 24 luglio a Pescara. Ecco, non allora, lo lascerò scappare. Andremo, certamente. Sì, sicuramente. Allora dici, Generale, dicevo, è una canzone che mi ributta maledettamente. Ti ricordi? Indietro. Sì. No, è un altro cantautore che, diciamo, si è occupato anche di questo tema. D'altronde la sensibilità, credo, di un cantautore non può non prescindere dalla versione alla guerra e alla violenza. Credo che di prima persona si sia esposto su questo tema è proprio John Lennon. Aspetta, io prima ti volevo fare una domanda su Francesco De Gregori. Dimmi. Vediamo un po' se sei sono preparato. Che cosa lega De Gregori all'Abruzzo? De Gregori all'Abruzzo, c'era una canzone che diceva quattro cani per strada, sulla strada di Pescara, questo me lo ricordo. No, non è... De Gregori, Francesco De Gregori, il padre di Francesco De Gregori era un bibliotecario e fino all'età di 10 anni lui è vissuto a Pescara. Ecco perché la canzone, ma... E poi naturalmente all'età di 10 anni è tornato a Roma, è andato a Roma a vivere e poi vabbè, poi c'è stato il periodo del Folk Studio dove si è incontrato con il nostro col dottor Drocasciulli di Penne. C'era pure Venditti. E c'era pure Venditti, sì. Sì, Carlo, ti dico un po' la vita privata degli cantautori, non è che... non è che li seguo molto, sì, più il messaggio che arriva, tu sei più addetto ai lavori. No, dico, noi quindi... poveri DJ di provincia. No, scusami, è una mia ignoranza, ammetto la mia ignoranza, però... Allora, la cosa più eclatante in questo senso mi è successa, scusa se apro questa parentesi, un po', facciamo anche un po' di... non di gossip, ma la cosa più incredibile che mi è successa quando io scrivevo per un quotidiano qui locale, c'era il Festival di Sanremo e a un certo punto Gianni Bella propone un brano di Mogol e dice che intervistano Mogol e dicono che questo brano dice la via degli oleandri si chiamava, e questo brano è dedicato a una via che io percorrevo sempre quando ero ragazzo da Silvi a Santo Stefano di Silvi, che è una frazione, era piena di oleandri, questo profumo mi ricordo eccetera. Quindi dopo 10 minuti mi arriva la telefonata del vice direttore e mi dice: ma come? Mogol è stato a Silvi, noi non sapevamo niente. No, guarda, sì, non so niente. E poi il giorno dopo mi toccò rintracciare il numero di Mogol e lì scoprì, in un'intervista a Mogol, scoprì che Mogol dall'età di 0, 17 anni, era praticamente sempre a Silvi e mi citò, sì, per 3 mesi, sì, mi citò la canzone del sole, eccetera, erano tutte nate da ricordi di quel periodo. E quindi ecco, vedi, poi... I collegamenti. Benissimo, allora se ti sfido a collegare dimmi. Io ho l'iPad, però ovviamente sei avvantaggiato con John Lennon e Imagine, adesso il brano che sentiremo adesso. Dicevo che forse fra i cantautori che questo è un altro inno, sì, bravissimo, ma fra i cantautori, Carlo, che si sono esposti maggiormente da questo punto di vista, anche politicamente, è stato proprio John Lennon, che molti non lo sanno, con questo mito, però in effetti è stato uno di più, un grosso pacifista, appartenente proprio a questo movimento pacifista. Credo che anche lui è stato ucciso da un esaltato, ma forse perché questo suo messaggio era forte, fortissimo. Ma credo che c'entri molto però il viaggio che i Beatles fecero in India. C'entra anche Yoko Ono, il suo incontro con Yoko Ono, però gli altri andarono più verso, se tu ricordi, George Harrison, My Sweet Lord, più verso il mistico. Invece Lennon rimase su ateismo, ma non so, tanto è vero che in questo brano proprio la religioni, e perlomeno non... Se è un mistico non lo so, però condanna di sicuro le religioni. E bravo Lucio, ascoltaci, che ti fa bene, bravo Lucio. Non so che cosa stia succedendo. Ah, sta seguendo, sì. Va bene, scusa, poi mi hai fatto perdere il filo, comunque scusa. Io direi di... No, lui cita in un verso, credo, anche questo, tra virgolette, ateismo, no? Sì, immagina, sì. Anche senza chiaro. Mo magari lo ritrovo sull'iPad e poi lo ricorderemo agli ascoltatori. Ecco, subito. Allora, se Carlo è pronto, io lo ascolterei Imagine, perché credo che sia uno dei brani più belli, in religioso silenzio, più belli della musica, non solo rock ma anche pop popolare, insomma pop. Uno fra i primi brani, non sei d'accordo Carlo, che è uno dei migliori brani che sia mai stato scritto? Sono molto d'accordo, è uno dei brani più ispirati, credo, di tutta la produzione, sì, di John Lennon. Ma credo anche nella produzione della musica rock in genere, in toto. Sì, giusto. Ok. In pratica questi versi, no, di Imagine, poi uno, ecco, in effetti dovrebbe un po' più soffermarsi, e di una semplicità unica, ma anche di una efficacia unica, e in effetti parlano di politica, di possesso, quindi di soldi in qualche modo, e quindi di potere e del potere anche della religione. In effetti la prima strofa dice: immagina che non ci sia nessun paradiso, è facile se ci provi, nessun inferno sotto di noi, sopra di noi solo il cielo, immagina che tutte le persone vivano per oggi. Ecco, benissimo. Io avevamo cominciato con un discorso abbastanza clericale, invece ci ritroviamo perfettamente. Come diceva Totò, ho detto tu. Ho detto tutto, in effetti. E poi, infatti, parla poi... no, li voglio citare i versi in italiano, sì, perché... Sì, no, leggilo. Sai perché? Perché questa è una canzone che noi siamo abituati a ascoltare in inglese, ci piace in inglese, poi magari non ci si sofferma mai. Magari sul ritornello sì, ma poi dice: immagina che non ci sia alcuna nazione, non è difficile da fare, niente per cui uccidere o morire. E anche nessuna religione, ecco, immagina che tutte le persone vivano la vita in pace. Diresti che sono un sognatore, ma non lo sono, non sono il solo. Spero che un giorno ti unisca a noi e il mondo sarà come uno solo. Immagina, nessun possedimento. Lo desidero, lo desidero se... Non è un'ottima traduzione questa. lo desideri se ci provi. Nessun bisogno di golosità o fame. Una fratellanza di uomini. Immagina tutte le persone condividere tutto il mondo. Diresti che sono un sognatore, ma non sono il solo. E spero che un giorno ti unisca a noi. E questo è così. E poi sono tematiche talmente attuali. L'accoglienza. Questa l'avrebbe potuta scrivere il Papa Francesco. Oh, stasera c'è la fissa, caro Carlo. No, ma è vero. No, tu, allora, io adesso ti do una notizione. Posso? Se no, così ti do la botta finale. Io mi sono laureato con una tesi in diritto canonico. E questo non lo sapevi. Io penso che tu l'abbia fatto per conoscere meglio il nemico. No, no. Però la mia tesi, io ho fatto una tesi sulla sollecitudo re sociale, quindi sulla dottrina sociale della Chiesa, quindi il cambiamento, no, della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. Un po' l'inversione, un po' il solco su cui adesso si sta muovendo questa nuova Chiesa, anche la teoria della liberazione, sono queste cose qui. Io invece ho fatto la tesi su Bertolt Brecht, il teatro, un'arma contro il nazismo. Insomma, siamo lì. Sono due chiese differenti. Adesso passiamo a un altro brano che apparentemente non c'entra nulla con la guerra e la lotta. Apparentemente. Esatto. Ma in realtà nei versi ritroviamo quella che è l'illusione o la paura o il fatto che noi possiamo credere che la ricerca di un mondo pacificato, di un mondo di accoglienza, come tu stavi dicendo nella canzone, sia una chimera, un'utopia. E questa la mette in evidenza molto bene Edoardo Bennato nella sua Isola che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano. Ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi. Forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E e ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te. Dalla scaletta che hai preparato, Elio, a me sembri, viene fuori una personalità che mal sopporta i lacci, i lacciuoli, no? Sei ancora alla ricerca della tua isola. Ma credo che lo siamo tutti, Carlo, non solo io. È vero, ma poi Bennato, no? Nel brano che abbiamo appena ascoltato dice... Siamo ancora alla ricerca, continua a cercarlo questa isola. In effetti è in fondo è la vita, no? Sì, solo credo che non debba essere appunto un'isola che non c'è. Dobbiamo fare la ricerca, che significa impegnarsi per raggiungerla, quest'isola, che non sia solo un'isola che scompare. Ti ricordo che pure c'era un altro brano che parlava di quest'isola chimerica, che era L'isola non trovata di Francesco Guccini, cioè dove il tema più o meno lo stesso, cioè questa ricerca di questo mondo più giusto, più senza qualcosa, pure Vecchioni, non me lo ricordi, non lo so, perché a un certo punto poi non l'ho seguito più, mi è scaduto Vecchioni, quindi ti è scaduto Vecchioni. Chiedo scusa agli amanti di questo cantautore. Come il cibo. Ma io sono uno di quelli che sei rimasto. No, ti dico, Carlo, veramente, soprattutto fra gli artisti nostrani italiani, tolto De André e qualcun altro, la maggior parte, la prima produzione mi ha affascinato. Sì. Poi mano a mano invece c'è stato come un revisionismo musicale, se posso dire, e anche sui testi. Però qui ci potrebbe aiutare Vincenzo, che è un esperto di musica. Salutiamo, io non lo so, Piero. Salutiamo anche Piero che ci sta ascoltando, e Vincenzo che è un esperto di musica, io purtroppo non lo sono, però c'è stato anche a livello un'involuzione, anche a livello musicale. In tanti, non solo a livello di testi, ma anche a livello musicale, è andato di pari passo. Però in questo ti può rispondere Vecchioni, vedi? Poi il tanto bistrattato Vecchioni, perché ti ricordi quando venne ad Atri? Tantissimi anni fa, la prima volta, Festival dell'Unità. Ma lascia perdere l'ultima volta, però. La prima volta io andai a mangiare gli arrosticini con Vecchioni. Ma è vero, è vero. Perché c'entra pure la radio. Io lo intervistavo per Radio Express, che avevamo fatto, certo, noi, ti ricordi, ricordo, col sì. partito. E io gli chiesi proprio questa cosa, nel senso che dicevo, tu sei stato uno dei primi cantautori che in qualche modo ha cambiato un po', si è un po' evoluto, perché dal solo testo e chitarra, no, eccetera, prima, e poi si è passato a un arricchimento maggiore negli arrangiamenti soprattutto. E poi comunque lui si trovava in un periodo, diciamo, un po' di fiacco, di bassa, quando venne. E lui però mi spiegò in maniera talmente candida che la forza poetica, la forza anche compositiva, sì, i primi 2, 3, 4 dischi sono forti, poi è forte, ma poi la cosa scema, e quindi è quello che dici tu, è un po', credo, successo a tutti. De André, tu lo citi, però De André in qualche modo, diciamo, ha lavorato più sulla ricerca. Questo è il segreto, forse, Carlo. Continuare la ricerca, non fermarsi. Questo forse. Di André ce n'è stato uno solo, un po' tutti questi, poi insomma, poi diciamo anche che i soldi hanno il loro peso, quindi anche un tipo di vita, poi un tipo di, e poi la poetica, la creatività poi scema, inutile. Secondo quello che mi diceva lui. Sì, non è una linea costante, può scendere ma può anche risalire, Carlo, quindi no? Cioè, sì, l'importante, come dici tu, è cercare quelle vie che ti permettono poi, come... Dicevamo, perché De André, quando ha fatto Creusa de Ma, era partito da, da che so, Bocca di Rosa, eccetera, e lo ritroviamo a Creusa de Mar. Quindi c'è una continua ricerca, un continuo andare avanti, Carlo. Questo è importante. Sì, sì, forse ma voi De Andreani? No, non lo sono. Non siete, direi. Siete puristi. Siete una cosa. Io ne conosco tre o quattro che. Cioè, allora il adesso, Vangelo. Allora, ma adesso ti faccio d'accordo. Sentire Civil War dei Guns N' Roses. Vai. Okay? Vai, maestro. Maestro sarebbe il nostro amico. Is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like you any more than you me. Young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading. The way we've always done before. We're spilling. Look at the world we're killing. Questa era Civil War dei Guns N' Roses. Così sembravi Peppino impastato quando sei entrato. Un'altra canzone contro la guerra. Vuoi vedere, tu che sei un pacifista, vuoi vedere che ti faccio arrabbiare? Ti faccio arrabbiare. Adesso mettiamo alla prova la tua saldezza di nervi. Ma a te... Matte, te ne frega che il governo 5 Stelle e Lega, che Berlusconi gli ha detto nessun veto all'intesa, ma no alla fiducia. Che significa? Scusami. Bravo, vedi, questo... vedi che cioè... l'hai capito. Vabbè, sì. Lasciamo perdere. Aia. Hai visto? Beh, che ti ho detto che ti faceva arrabbiare. Vabbò, caro Carlo, sì, Carl Bartleby del Boom. No, non è quella sigla che mi hai fatto adesso, che Carl Bartleby Boom. È il nome di battaglia del nostro DJ Carlo. Vai col DJ. È il tuo mestiere. Sì. Il mestiere, il mio pericolo. Bellissimo mestiere, tra l'altro. Adesso andiamo avanti con un autore, tanto per cambiare, e che parla ancora della violenza, della guerra, e qui si parla della sopraffazione di un popolo su un altro popolo, anzi della distruzione di una intera nazione, è quella indiana. D'altronde noi occidentali, noi civili, paesi civilizzati, abbiamo fatto di questo anche peggio, e quindi abbiamo distrutto un'intera nazione, come è stato poi in Sud America, gli spagnoli hanno fatto con gli indios, così poi hanno fatto gli americani con gli indiani. Allora, Fiume St. Creek. Sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del St. Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Sand Creek. I nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek. Questo è bellissimo, questo brano. Vabbè, insomma, tutti i brani di André ci hanno, come si suol dire, non so perché. Adesso faccio il DJ, posso? Sai perché? Perché in questo album, che è del 1900, che si chiama come lui, Fabrizio De André, è del di che anno è? Aspetta un po'. dell'81, sì, dell'81. In questo album c'è la collaborazione di Massimo Bubola, che è un altro artista preferito da De André, è lo stesso che ha collaborato con De André per i testi in Rimini. E quindi la cosa interessantissima di De André in questo brano è l'accostamento dei Cheyenne, quindi degli indiani, al popolo sardo, di cui lui naturalmente era innamoratissimo e di cui anch'io sono innamoratissimo. Io tra i sardi ho dei splendidi amici, sperando che mi stiano ascoltando li saluto. Perché appunto vedeva nell'epopea, no? La storia degli indiani, anche un po' l'epopea della la storia dei sardi, un po' invasi anche in qualche modo, e sottomessi. Giusto? Giustissimo, Carlo. Sono andato bene? Sì. Stasera Vabbè, no, no. Che domani vado in vacanza, quindi sono un po'. Beato te che vai in vacanza. Almeno, insomma. Allora, dunque, parlando appunto del sud del mondo, perché se parliamo di Sardegna o di indiani, io identifico il sud del mondo con i popoli, diciamo, che subiscono la prepotenza dell'Occidente industrializzato. Un altro brano che nasce proprio, credo, in Argentina è quella di Gracias a la Vida, famosissima, che poi non ha bisogno di nessuna presentazione, perché possiamo dire che è il più bell'inno alla vita sotto forma di canzone che sia mai stato scritto, e di per sé quindi è una canzone contro la guerra. E infatti è tutta dedicata alla vita. Sì, qui è cantata da Joan Baez. Vede un po'. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto. Que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Qué bella questa canzone. È bella perché è bella perché comunque ci richiama proprio alle cose importanti, no, della vita, perché l'ultima strofa dice: grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto, così io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto, grazie alla vita che mi ha dato tanto. Questa è bellissima. È la cosa un po' che mi fa riflettere, che questa è di Violetta Parra, che poi morì suicida, questa, l'autrice di questa canzone. È un ossimoro, un dolore immenso provo quando accostare lei a questa canzone. Veramente, Carlo, per la bellezza di questa canzone, per, anche come hai citato tu le parole, mi fa soffrire questa cosa. Ti dico sinceramente, lo sento come una morte di un'amica cara che non riesco a comprendere. E questo suicidio. Diciamo che questa canzone è stata tradotta in tantissime lingue. Sì, Adani in Italia, Gabriella Ferri. Sì, credo. Gabriella Ferri, un'altra grande interprete. Sofferente anche lei un po' del mal di vivere. Esatto, brava, anche la, purtroppo. Invece Joan Baez, vabbè, è piena di vita, e anche lei una in prima fila per i diritti civili, per la battaglia contro la guerra, contro le ingiustizie sociali. Carlo, però abbiamo citato, guarda caso, tre donne eccezionali, perlomeno dal punto di vista artistico e anche dal punto di vista umano. Abbiamo parlato del sud del mondo, perché Sardegna, popolo indiano, Argentina, un popolo che viene ancora oggi, diciamo, questa fascia del mondo viene ancora sfruttata, calpestata, sì. Rifiutata poi, dopo che noi li sfruttiamo, rifiutiamo anche di accoglierli. E vorrei farti sentire una canzone che rientra nel tema quindi della violenza, del potere, che sembra, che dal titolo Jamming, letteralmente tradotto, significa facciamo una jam session. In realtà significa anche marmellata. Sì, è vero, letteralmente, sì, ma nel senso appunto facciamo, sì, mischiamoci, esatto. Sì. Proprio per questo è un attacco al potere. Come d'altronde in tutte le canzoni di Bob Marley, qui si parla di schiavismo, dove si parla di schiavismo, resistenza ai conquistatori bianchi, da caso. In pratica si rifà quelle esperienze di sottomissione subite dal popolo, dal suo popolo. In una parola, di colonialismo. Di colonialismo che noi qui, che grazie al buon, come si chiama quello, buon Trump, stiamo rivivendo. Sì. Stiamo rivivendo. Ma noi nemmeno scherziamo. Neanche scherziamo. No, la cosa che mi fa ridere, Carlo, scusa, questo lo devo dire, è che qualche anno fa noi dicevamo che gli italiani non sono razzisti. È vero, perché non c'era nessun italiano, non c'era nessun immigrato. Allora noi eravamo tutti buoni. Nel momento in cui sono arrivati anche da noi gli immigrati, allora siamo diventati purtroppo io anche razzisti. Mi ricordo un libro di Gian Antonio Stella, sì. Che poi Gian Antonio Stella, non so se era Lillo o Marco Lillo, vabbè, comunque Gian Antonio Stella, sì, di una decina di anni fa, quello che poi ha scritto La Casta, no? È diventato un po' più famoso giornalista del Corriere, sì, della Sera, cioè. Sì, sì. E scrisse questo bellissimo libro che si intitolava Quando gli albanesi eravamo noi. Perché in quel periodo andavano di moda gli albanesi. E lì ricorda, è un libro che vi consiglio, perché ripercorre storicamente in maniera esatta tutte le angherie, tutte le sopraffazioni che gli italiani fuori dai nostri confini hanno dovuto subire. Sacco e Vanzetti, accusati ingiustamente, ma anche stragi dimenticate o mai conosciute di italiani che erano additate come veramente la peggiore feccia del mondo. Ecco, in quel periodo gli albanesi o i marocchini o gli extracomunitari eravamo noi, i nostri bisnonni, però noi abbiamo memoria corta, anzi. Carlo, mio padre è stato un immigrante in Belgio, mi raccontava, c'era vietato l'ingresso ai cani e agli italiani nei negozi. Sì. Quindi poi noi dimentichiamo, hai detto giustissimo, la memoria corta, dimentichiamo che l'Italia, abbiamo esportato in America la mafia. Quindi sì, quando accusiamo appunto che arrivano da noi solo delinquenti, sì, sono tutti delinquenti, assassini, criminali, stupratori, cioè sono tutti loro, e dimentichiamo che anche noi quello sì, ma io già immagino che magari su Facebook da un'altra parte, no, qualcuno ti dirà dirà a questo nostro discorso se gli vuoi così bene portateli a casa tua, sì, cose qui, perché ormai ragioniamo su questi termini. Carlo, io sono ancora quello di quelle che pensa che il mondo non dovrebbe avere confini, quindi figurati. No, io sono uno di quelli che dice che il mondo non è mio, non ha confini, quindi siamo tutti su questa palla che gira continuamente, e abbiamo fatto i muri. Vabbè, certo, le diversità ci sono e sono una ricchezza dell'umanità, questa diversità. Ma guarda, se poi vai a vedere, Elio, le diversità sono veramente minime. Se uno fa un discorso antropologico, ho capito quello che volevi dire, delle culture, ma quello è un arricchimento, però. Esatto, ed è un arricchimento, però se poi uno va a vedere la matrice, sono più le cose che ci uniscono, le matrici sono comuni, sì, perché quindi società agropastorale società pastorale diversa da, per insomma, usare un termine che a te piacerebbe questa sera, siamo tutti fratelli, vero? Certo. Ma no, a me piace proprio il discorso che faceva John Lennon, no? Non possesso, esatto, perché tutto questo nasce dalla convinzione che l'Italia è nostra, l'Italia è di chi ci sta, di chi ci vive, di chi ci lavora, non mia, attualmente è mia, ma fra 10, 15, 20 anni. Carlo, dai, andiamo avanti con Jamin di Bob Marley. Stasera però Elio ci stai ammazzando di nostalgia. Ci stai sommergendo, anche Carlo qui, il nostro il Carlo Mix della situazione, mi ha ricordato due o tre cose, ha ricordato giustamente che questo brano era all'interno del jukebox dell'Hotel Du Parc, in cui abbiamo lavorato tutte e due, sia io che Carlo, io come barista, come apprendista barista che lavorava da solo a 14 anni. 15 anni ci avevo, e mi ricordo che mettevo in effetti questo brano, andavo lì con i 100 lire e si metteva, io mettevo sempre questo brano, Hurricane di Bob Dylan, che stava dentro. E poi c'era anche Fearless. Sì. No, quando c'ero io non c'era. Lo ricordo bene perché iniziava con il coro della canzone, con l'inno del Liverpool. È vero, sì. You'll never walk alone. Ma noi qui facciamo la storia, comunque, la storia del territorio. No, comunque il jukebox dell'Hotel Du Parc è una cosa. Il famoso jukebox. Una cosa che mi è rimasta impressa e che. Per me era, e ti giuro, era l'unico contatto. No, perché credo che a questo punto i miei potevano essere denunciati per sfruttamento di lavoro minorile. Era l'unico contatto che io avevo con un po' la realtà, perché io avevo i miei amici che avevano la fortuna di non lavorare l'estate, che venivano tutti lì sul terrazzo dell'Hotel Du Parc a mettere i piedi e mi dicevano: Carlo, portami questo, portami quell'altro. E il jukebox era l'unico aggancio che io avevo con la mia passione, che era la musica. Ma già stavi in una fase evoluta confronto a noi. Noi c'avevamo il jukebox. Col grammofono. No, assolutamente. Il jukebox di Nelluccio. Il bar che stava lì sotto. No, io con Nelluccio avevo il rapporto col biliardo, perché la mattina prima di andare di salire al liceo si copiavano le versioni sul biliardo di Nelluccio. C'era io, ci andavamo noi, c'era anche il flipper, il famoso flipper. Flipper e biliardo. Poi invece arrivò l'evoluzione, Carlo, arrivò il primo videogioco, possiamo dire, Space Invaders. Ah, mi ricordo, ma quello del muro, io mi ricordo. No, c'era Space Invaders, quelle che si sparava. E che aveva sempre quel ritmo, sì. Costante. Tum, tum, tum, e poi arrivavano. Era il primo Space Invaders. Quello del wall, no? Del muro. Del muro. Sì, no. Ok. No, poi scoprono che abbiamo 75 anni. 90 anche. Non li dimostriamo. D'accordo, Carlo, adesso... Io ho preparato un brano che tu conoscerai senz'altro, sì. E so che ti piace molto. È un brano che anche questo, no? Già intanto è un brano che dà il titolo a tutto l'album, sì. È l'album, diciamo, di punta l'album che ha fatto conoscere, che ha fatto scoppiare il fenomeno Dire Straits nel nostro continente. Ed è Brothers in Arms, è un ossimoro anche questo, se si pensa, no? Fratelli in armi, forse molti lo ricordano. Questo non è il brano più conosciuto, perché il brano che poi sfondò e in cui c'è quel fantastico assolo dei fratelli Knopfler era Money for Nothing, ma a me piace di più questo. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you return. No longer burn to be brothers in arms. through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, questo è uno di quei brani in cui non parlano solo le parole, ma parla tantissimo la musica e anche il modo in cui Knopfler fa suonare la sua chitarra. Sempre per quel maledetto vizio che noi non anglofoni abbiamo, purtroppo, e anche per i limiti, e sarebbe bello. Io adesso vi leggo solo qualche parola di questo splendido brano, che vi ricordo è Brothers in Arms dei Dire Straits. Ci sono tanti mondi differenti, tanti soli diversi, e abbiamo solo un mondo, anche se viviamo in diversi. Ora il sole è andato all'inferno e la luna sta alta nel cielo. Fatemi dire addio a voi. Ogni uomo è destinato a morire ed è scritto nelle stelle e in ogni linea sul tuo palmo. Siamo davvero matti a far combattere la guerra ai nostri compagni d'armi. E questo è un po', dicevo, forse il pezzo più ispirato di questo album stupendo, un po' tutto un album stupendo, però insomma ringrazio Elio per averlo scelto. Ringrazio voi che mi avete dato la possibilità di trasmetterlo, e forse queste ultime parole che hai letto condensano molto bene quella che è l'intendimento di questa serata. È stata una serata bella, siamo alla fine. Enzo, sei arrivato alla fine, ti sei perso tutto. Vabbè, però te lo puoi risentire, perché ti puoi scaricare la nostra registrazione. Vero, Mix? Vero, ma è possibile anche rivedere il video tra qualche minuto. Vedi come siamo avanti noi. ti ricordi le pizze del ecco, sta lì, del geloso, sta lì, sta. Del registratore geloso, sì. Bene Carlo, io direi che questo è veramente l'ultimo brano per questa sera, anche se parla della guerra, delle sue atrocità, e mi piaceva concludere con questo brano perché è uno dei gruppi progressive più importanti del nostro panorama italiano, è stato perlomeno, ed è RIP del Banco del Mutuo Soccorso. Thank you. sorriso al cielo, sugli occhi c'è il sole nel petto. Questo era un reperto storico. Beh, sì, è il primo album del Banco del Mutuo Soccorso. Quindi. Diciamoglielo a quelli che ci stanno ascoltando, no? Perché questi, come abbiamo detto, no? La memoria è un po' labile nel nostro paese. Questo era il primo album. Sì, quello proprio a forma di salvadanaio che esatto. Io avevo, purtroppo l'ho perduto prima. Ah! Sì. Poi ce l'hanno rifatto, ma era quello il long plane rettangolare, invece quella è proprio a forma di salvadanaio. Esatto. E come potete sentire, come avete potuto sentire dal brano, l'ispirazione, comunque l'influsso progressive è notevole. Anche se avevano un loro sound particolare, soprattutto la voce di Francesco Di Giacomo, che purtroppo poi è morto in un incidente stradale, era inconfondibile, bellissima voce, insomma. Stupenda. Noi abbiamo avuto la fortuna di ospitarlo, sì, stavamo ricordando. Ricordo, sì. Etno Rock, se non sbaglio. Esatto, sì. È un personaggio anche squisito, insomma. Caratteristico. I grandi sono sempre squisiti. Esatto. I piccoli sono arroganti. Più sono piccoli, più sono... Sì, più sono arroganti. Prepotenti, sì. È vero. Allora, Elio. Siamo alla fine, sono le 22:46, è stato uno splendido excursus, come dicono i più colti, attraverso periodi storici, periodi anche musicali, insomma, ne stavamo parlando qui, poi noi insomma discutiamo anche un po' tra un disco e un altro, è stato un bellissimo tuffo, se volete un po' nostalgico, ma un tuffo bellissimo nel musica di altri tempi, ma anche un tuffo nella nostra storia recente, che insomma comincia a essere storia vera. Io ti posso dire la differenza, Carlo, fra l'altra volta, cioè la trasmissione l'altra volta abbiamo parlato di te molto di più, adesso questa trasmissione forse è più giusto così. Abbiamo fatto parlare molto la musica e le parole e i testi delle canzoni. Mi sembra un ottimo modo di affrontare quel tema della guerra, ricordando che la musica, come altri tipi di arte, può essere un ottimo strumento contro la guerra, insomma. Ecco. La musica è un linguaggio bellissimo e universale, e poi insomma c'è un purtroppo da dire in questo, che purtroppo la musica, la poesia, l'intellettuale purtroppo vede prima, e spesso quindi le sue parole vengono anche, le opere, no, di queste persone vengono anche in qualche modo prese sotto gamba, e poi magari quando il tutto è successo si dice ma c'era quello lì che l'aveva. Ma Carlo, il papà di Woody Guthrie, che era Arlo Guthrie, che poi ha influenzato molto la musica americana, in particolare Bob Dylan, e lui andava girando con una chitarra acustica, quindi in mezzo alla gente, e su questa chitarra c'era scritto "This machine kills the fascist". Esatto. Quindi, tu che sei un linguofono, tradurre, però loro l'hanno capito, no? Questa macchina uccide i fascisti. Però guardo, sto fascismo sta tornando di moda in una maniera incredibile che non ci si può credere. Io non capisco sinceramente, non capisco come non sia possibile avere un minimo di cognizione, di coscienza storica. Io sinceramente a questa cosa non ci arrivo, Elio. Cioè, basta voltarsi indietro, cioè non è che stiamo parlando dei romani, ma basta voltarsi indietro, no? Capire, quando sento dire ma comunque, ma anche da giovani il fascismo aveva le sue cose positive, esatto. Cioè, questo richiede un maggiore impegno, questo è il nostro fallimento, ma richiede società. Un maggiore impegno, questa è la certificazione del fallimento di questa società italiana, sì, che sta ancora alle prese di dire ma Mussolini ha fatto le cose buone. No, non ha fatto nulla di buono, diciamolo una volta per tutti. Mi dispiace per tutti quelli che ma qui stiamo parlando di storia, non stiamo parlando di politica, stiamo, esatto, parlando di storia, stiamo parlando di un personaggio e più personaggi che hanno messo in ginocchio, ridotto alla fame e portati alla morte un intero popolo. Il resto, la gente, è scritto sui libri, quindi andatevi a vedere qualcosa e poi date il vostro giudizio. Non è possibile che stiamo ancora qui a dire ma quello sì, i treni arrivavano in orario, tutte le fregnacce varie, vabbè. Vedi, poi mi sono ripreso alla fine, all'inizio sì, ti stavo preoccupando. No, vabbè, questo è un discorso che e fatto. Sono contento che questa trasmissione è registrata e rimarrà ai posteri. No, richiede un maggior impegno, forse, tutto questo che dici tu da parte nostra, nel nostro ambito di quello che ciascuno di noi può fare per salvaguardare queste libertà, che poi, come hai detto ben tu, inteso, ecco, tanto per chiarire, ben inteso, quando io parlo di fascismi e parlo di totalitarismi, io non è che assolvo il comunismo staliniano, assolutamente, è stessa cosa. Abbiamo aperto con la primavera di Praga, quindi non è quello Carlo, no, che sia chiaro, perché in questi tempi ormai viviamo tempi bui, caro amico mio. Le dittature, le sopraffazioni dell'uomo sull'altro uomo, Carlo, è inutile, non ha un colore, cioè rosso, nero, non esiste, cioè è sempre sfruttamento del più debole e quindi ridotto al silenzio, all'obbedienza, sarebbe un termine un po' mistico, me lo lasci passare, tu hai cominciato, però è questo, quindi no. No, non solo no alla guerra, ma no alla violenza, no a questo potere che ci vuole. Sì, chiudiamo con una piccola barzelletta, adesso mi hai fatto tornare a mente, una barzelletta che aggirava nel periodo, no? Diceva che in Russia domandavano al compagno, a un compagno, dicevano, ma compagno, il capitalismo che cos'è? E il compagno rispondeva, è lo sfruttamento dell'uomo su un altro uomo. E il comunismo il contrario. Sì, no, la dittatura del proletariato. Sì. Vabbè, okay. No, ma questa era la battuta, per dire che in fondo poi si sono toccati, quindi noi non siamo per però le bisogna, dittature. Non bisogna abbassare la guardia, come ha fatto appunto Peppino Impastato. Continuiamo anche attraverso una piccola radio, non spero che diventerà grande, adesso credo sia o no. Viste le premesse non credo. Però spero. Ma a noi non piace, piace la radio partigiana. Esatto. No? Anzi, stasera ci è venuta l'idea di un programma che adesso se va in porto. Partigiano, giustamente, direi giustamente partigiano. Il non partigiano è colui che se ne frega, che se ne fotte. Ma poi ringraziando il cielo ce la paghiamo noi, ce la sogniamo noi, ce la pensiamo liberi, solo, siamo liberi. Questa libertà bisogna difenderla, ecco, giorno per giorno. Questo è un consiglio che vi diamo, ecco, siate sempre liberi nella vita, perché poi alla fine c'è gusto. E dove c'è gusto non c'è perdenza, dice mio nonno. Vabbè, a Tarallucci e vino. Eh sì, no, sì, alleggeriamo un po' i toni. Sì. Sì, adesso non ci sarebbe male un bel brindisi, sì. con un bel rosso. Ieri sera abbiamo fatto il brindisi fermentato, però con la birra, che bello. Vabbè. Buonanotte a tutti. Saluto anche io a tutti, alla prossima volta, al prossimo incontro. Arrivederci.